per la partoriente che non conosce futuro, per tutti coloro che piangono destino, per chi non lavora in un paese ricco, per chi non ha più la forza di guardarsi nello specchio, per chi della chiesa ne ha fatto un posa cenere, che pregano le banche il dio denaro più convenevole, per chi con questo mondo non si è mai capito, per chi continua a credere che ogni mondo sia infinito. A Newsday, povera terra, massacrata da schiavi, da uomini che predicano guerra. A Newsday, per tutte le ingiustizie che rendono l'umano più feroce delle bestie. A Newsday, per chi non ha compassione e sguardo volge al cielo per sputare la sua ossessione. Per chi è sbattuto a calci fuori dal sistema e non ha voce in capitolo, né soldi né diadema, per chi chiede perdono solo per fare peggio in fondo e dà la colpa agli altri di tutte le pene del mondo. Per chi è sempre in lotta con se stesso come un lupo, divora cibo e scorie ed ha lo sguardo cupo. Per chi vuole cambiare ma non sa guardarsi dentro, per chi non crede più in ogni vero cambiamento. Newsday, povera terra, massacrata da schiavi, da uomini che predicano guerra. A Newsday, per tutte le ingiustizie che rendono l'umano più feroce delle bestie. A Newsday, per chi non ha compassione e sguardo volge al cielo per sputare la sua ossessione.